Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economica in tempi di coronavirus. Parleremo molto dell'allarme lanciato da quasi tutti gli osservatori, penso a Standard & Poor's, ma anche Morgan Stanley. Tutti dicono, insomma, siamo già in recessione globale. La recessione globale, dice Morgan Stanley, sarà peggio di quella del 2001. Standard & Poor's dice la recessione globale è già qui tra noi, dobbiamo aspettarci un'ondata di fallimenti di società statunitensi e americane, un tasso di default che potrebbe superare il 10% negli Stati Uniti e in Europa nei prossimi 12 mesi. Chiara la recessione nell'Unione Europea, il PIL italiano viene previsto a un meno 3,4% da un più 0,2% e un più 3,5% invece nel 2001. Tutte riviste a ribasso in recessione il PIL degli altri paesi, questo chiaramente al netto delle politiche che paesi poi sapranno mettere adesso, come stiamo commentando da giorni, sono tutte misure di contenimento anche economico, non sono ancora, diciamo, la risposta definitiva. Faccio notare che l'ammontare annunciato dalla Spagna come soldi che verranno mobilitati, la Germania ha detto 500 miliardi, l'Italia ieri 350, la Spagna ha dato una cifra simile, e anche l'ammontare della manovra della Francia sui 35 miliardi è assolutamente in linea con quello che ha dato l'Italia, 25 miliardi per di manovra diretta in grado di mobilitare 350 miliardi. E quindi sostanzialmente non solo, ahimè, stanno capitando le stesse cose negli altri paesi e quindi la chiusura completa annunciata ieri Macron, ma lo sapevamo anche della Francia. In Francia abbiamo visto esattamente le stesse cose che sono successe in Italia, la grande fuga da Parigi dopo l'annuncio del Presidente Macron. Evidentemente i francesi non hanno imparato dai nostri errori, con l'unica aggravante che mentre noi siamo stati i primi, come ricordavo anche ieri, a fare il decalogo, a decidere come, e siamo andati anche per tentativi, prima cercando di restringere la Lombardia, poi però con i ristoranti, i bar aperti fino alle di Lombardia e le altre zone rosse aperte fino alle 18, poi abbiamo esteso tutta la zona rossa a tutta Italia, abbiamo chiuso anche i ristoranti, i bar tutto il giorno. E qual è stato l'errore che abbiamo commesso noi e che però si sperava che gli altri non facessero? Beh, quello di dare troppo tempo, di non chiudere subito i trasporti, di lasciare che migliaia di persone dal nord si spostassero verso il sud in maniera assolutamente folle, e quindi con il rischio adesso che tutti temiamo di un contagio nel nostro sud. Perché lo dico? Perché uno poteva immaginare che la Francia, avendo avuto 8-9 giorni più dell'Italia, perché siamo esattamente a questa differenza temporale, 7 giorni con la Spagna, 8-9 giorni con Germania e Francia, e invece Macron cosa ha detto? Ha detto il confinamento, cioè le misure restrittive, partiranno dalle 12 di oggi. Che cosa è successo? Migliaia di persone si sono riversate nelle stazioni per lasciare Parigi e raggiungere la regione d'origine, in altri casi andare nelle seconde case. Guarda, è esattamente la fotocopia di quello che abbiamo visto noi, perché magari sono più spaziosi, più grandi, in un posto più verde. Adesso sono preoccupati anche in Francia, perché aver visto tutti queste migliaia di persone nelle stazioni li preoccupa. La Francia è pronta anche a nazionalizzare, ha detto il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, la nazionalizzazione per proteggere le imprese francesi minacciate dal coronavirus. Questo secondo me è un esempio che dovrebbe iniziare a prendere anche l'Italia, cioè se c'è qualcuno che pensa in questo momento di scalare imprese italiane strategiche, a parte il fatto che poi più avanti faremo anche ragionamento su d'ora in avanti forse alcuni settori del medicale, biomedicale, non puoi averli così distanti per l'approvvigionamento, ma questo è ancora presto. Ma se c'è qualcuno che tenta di scalare imprese importanti italiane approfittando dei crolli di borsa, Beh, è giusto che lo Stato faccia sapere subito che si opporrà, Golden Rule, chiamatela come volete, ma insomma che piuttosto si va alla nazionalizzazione di alcuni settori, ma non li si fa scalare da chi in questo momento ha i soldi e approfitta della borsa. A questo punto, visto che parlavamo di borsa, devo dire che dopo gli annunci fatti di nuovo dalla Federal Reserve, altri soldi, la Banca Centrale Europea che ha annunciato che le banche europee hanno attinto a 106 miliardi di euro, questa insomma è le notizie che abbiamo visto da fuori, la nuova asta della Federal Reserve da 500 miliardi, di nuovo in campo la Banca Centrale Americana per la liquidità alle imprese. Lo dico perché ci aggrappiamo a questo. Fatto sta che le borse hanno tutte girato poi in positivo, più 2,90% Milano, in questo momento più 3% Parigi, più 2,60% Francoforte, più 2% Londra. L'America ha dato una mano con un più 4,60%, sono in recupero e anche deciso alcuni titoli. Segnalo che ieri Milano è vero che ha perso tanto, il 6%, ma è nulla rispetto a quello che è avvenuto, al messaggio che Wall Street ha dato a Trump e all'America. Cioè il calo di ieri, il 13%, è il calo più grosso dal 1987, altro che 2001. Quindi il messaggio che è arrivato agli Stati Uniti, dove i casi stanno continuando a aumentare, adesso vi darò l'ultimo aggiornamento, erano oltre 4.000, ma adesso ve lo do, Stati Uniti 4.660, cioè gli Stati Uniti sono esattamente come eravamo noi, 4.636 il venerdì 6 marzo, e sarà un caso, ma è il giorno, il giorno prima che poi si decidesse di chiudere Lombardia e altre focolai, con tutto quello che ne è conseguito. La Francia invece, i dati non li ha ancora diffusi per quello che riguarda oggi, il dato ancora di ieri sono 6.600 casi, cioè esattamente come noi domenica 8, cioè, in realtà andranno a essere di più. La Spagna li ha già diffusi, sono 11.300, come l'Italia tra martedì e mercoledì della settimana scorsa. E questo lo dico perché la Spagna ha meno vantaggio di altri paesi, ha avuto 2.000 contagiati più in un solo giorno. La Germania è salita a 8.000 casi, come noi tra domenica e lunedì. Faccio notare che il margine di questi paesi, che era intorno ai 9-10 giorni la settimana scorsa, si sta riducendo a una settimana 8 giorni, e con una dinamica totalmente sovrapponibile a quella dell'Italia, anche a questo punto nelle misure. Molmed e giapponesi, sì, Molmed adesso, Molmed è una, ne parleremo nel corso delle notizie, è un gruppo italiano che lavora nel biomedicale, è arrivata un'offerta molto importante dei giapponesi, ma attenzione, un conto è un'offerta, adesso non è che vogliamo bloccare la possibilità che i soci di Molmed abbiano, le offerte si fanno, parlo di scalate su settori strategici che potrebbero essere, diciamo, la cui tentazione potrebbe arrivare dal fatto che i prezzi in borsa sono scesi moltissimo. Dicevo della borsa, 11, più 11,30% Telecom, più 9,12% Banco BPM, più 7,30% Pirelli, più 7,30% anche Eni, più 7% Terna, più 7% UBI, più 6% Snam, più 5,5 Atlantia e Juventus, più 5,20 Tenaris, più 5,20 Saipem, più 4,80 Unicredit e Intesa San Paolo, più 4,5 Recordati, più 4 Prismian, Ferrari più 3,80, Amplifon più 3,5, perde Azimut il 4,30, Fiat Chrysler il 4%, Generali il 3,60, Unipol il 2,5, Fineco il 2%, Nexi meno 1,70 come Diasorin, Leonardo meno 1,60%, non a caso l'azienda che guadagna di più, il titolo guadagna di più è Molmed, più 80%, ho visto l'offerta che è arrivata dal Giappone, e Egon più 18,37%. Alcuni mi dicono, ma che cosa? Guardate, la borsa è nervosissima come tutti noi, è estremamente volatile. Ieri aveva preso una scopa, è arrivata qualche garanzia in più dagli Stati Uniti, dalla Federal Reserve, che questo possa servire e bastare a giustificare questi rialzi? No, c'è anche molta speculazione, uno ha venduto magari nei giorni scorsi, va a ricomprare sui prezzi bassi oggi, ci guadagna, per cui non andrei a guardare il decimale in questi giorni nei movimenti di borsa. Euro su dollaro in leggero indebolimento a 1,09, la sensazione che tutti hanno avuto è che comunque anche Trump, dopo aver provato come altri nel passato, a dire che era una banale influenza, che l'influenza non ci deve di più, si è, tra virgolette, rassegnato. Beh, ricordate Trump della settimana scorsa, si è rassegnato, ha capito che c'è un rischio emergenza enorme anche, e anche negli Stati Uniti. Qualcuno mi dice, ma i 4.600 casi non sono confrontabili con quelli italiani per la popolazione, vero, ci mancherebbe, e così come gli 11.000 casi spagnoli sono più in rapporto a quelli d'Italia di una settimana fa, che la Spagna è una popolazione più bassa rispetto a quella italiana. Siamo d'accordo, sto guardando la dinamica dei casi per guardare la dinamica del contagio, non per dire che la proporzione sugli abitanti sia identica. Parleremo quindi di questo, dell'allarme a livello mondiale, e anche di chi invece sta cercando di produrre, di riportare in Italia la produzione per esempio di mascherine e materiale sanitario. Mi chiedete dello spread, è andato a 280, poi era un po' disceso a 270. Devo dire la verità, noi ci siamo beccati uno spread sopra i 300 per motivi politici interni, quindi non è che mi preoccupi molto, lasciamo stare quando arrivo a 500 uno spread di questi livelli, mi preoccupa più tutto il resto. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Qualcuno mi dice, lei non deve portare le dita al suo viso, ho capito, ho difficoltà anche a non toccarmi, i guanti li mettiamo, adesso non si preoccupi, abbiamo tutte le misure di sicurezza qua dentro. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Qualcuno mi scrive del numero dei decessi in Germania. Sì, è il grosso dubbio che abbiamo tutti. Qui c'è anche però un modo di calcolare i decessi in maniera diversa da ogni paese. Nessuno mi toglierà dalla testa che la Germania non abbia contabilizzato molti decessi che erano avvenuti nella categoria di influenze di stagione, influenza anomala di stagione, e fossero coronavirus. Ma ripeto, guardate, il tema non è i decessi, è il numero di contagiati e il numero di ricoverati o in terapia intensiva o in terapia subintensiva. Quello sta creando il problema. È quello che Trump non capiva, che non ha capito Johnson, che non ha capito chi non è finito nella fase già nostra. Non è solo il numero di morti che è tragico, ma il fatto che tu stai saturando, in alcuni casi sono arrivate a saturazione gli ospedali, e quindi se tu non riesci a gestire l'epidemia aumenterà anche il numero di morti, se non riesci a intubare e a dare la mascherina a tutti. Ed è una balla quella che colpisce certo che colpisce chi è più debole all'inizio, ma chiedete ai medici cosa succederebbe se non riuscissero a intubare e a mettere la mascherina anche ai 50-60 anni, e poi ci divertiamo. Vabbè, la cronaca delle notizie appunto riguarda soprattutto il rischio della certezza di una recessione globale, poi c'è il mondo delle compagnie aeree, ne parleremo. La IATA dice che il salvataggio dell'industria aerea costerà fino a 200 miliardi di dollari, e quindi del resto basta vedere anche tutte le compagnie aeree che oggi hanno annunciato chiusure di ogni genere, ma insomma direi che non sta volando più nessuno, sta volando solo alcuni casi, alcune compagnie aeree, alcune rotte, giusto per mantenere un minimo di collegamenti. Dicevo, mondo delle compagnie aeree, gli Stati Uniti stanno pensando di salvare i ristoranti con i dining bond, cioè si acquista un bond, un'obbligazione davvero di $100, ma la si paga solo 75 per il proprio ristorante preferito, e quando il ristorante riaprirà lo si potrà riscuotere alla riapertura come una cena. È una specie di obbligazione di tempo di guerra, vediamo, è una carta regalo scontata e viene decisa dai singoli ristoranti, cioè quando il valore nominale è 100, poi il singolo ristorante decide se lo paghi $75, $80, è uno sconto in più. Devo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che i paesi europei devono prendere misure più audaci, ma che l'Italia è da encomiare ed è un modello in quello che ha fatto fino a questo momento. Quindi vedete che lentamente stanno arrivando anche i riconoscimenti. Ho visto in giro i meme di Macron che copiava da Conte come sul banco di scuola, quello che abbiamo fatto noi. Stanno arrivando anche riconoscimenti del fatto che l'Italia, pur con mille difficoltà, incertezze e quant'altro, è stata l'Europa, è ancora meglio la frase dell'OMS, che dice sostanzialmente l'Europa impari dall'Italia, è un flash di poco fa, l'Italia è diventata la piattaforma per il know-how in Europa, secondo quanto ha detto il direttore dell'OMS per l'Europa Hans Klug, aggiunge, che è un tedesco, aggiungendo che il vecchio continente dovrebbe imparare dall'approccio dell'Italia. Per il resto poi c'è lo stop ai viaggi all'estero per un mese della Gran Bretagna, la regina si è isolata, Windsor forse ha capito l'effetto delle parole di Johnson, ha detto beh insomma meglio che mi isoli a Windsor, compirà 94 anni fra un mese, la chiesa anglicana ha sospeso le liturgie. In Olanda il premier Rutte mira anche lui all'immunità di gregge, auguri, auguri vivissimi. Il governo è in quarantena in Polonia. C'è un po', ragazzi, mi tenete in Italia, non in Mameli, non c'è bisogno di andare su tante basi, tanto le discoteche sono chiuse, che andiamo a fare? Allora, in Spagna 11.000 casi, 2.000 in un giorno, e un piano per mobilitare 200 miliardi, che se si fa un rapporto con l'economia italiana, come l'annuncio ieri di Conte, di un piano da 300, che mobilita 350 miliardi. In Germania da oggi il rischio contagio è alto definito, sono arrivati appunto 8.040 casi, anche se l'Istituto Koch dice probabilmente sono molti di più. Berlino costruirà l'ospedale per 1.000 pazienti, la Volkswagen ha fermato la produzione, la Yamaha ha sospeso la produzione in Italia e in Francia. La BCE appunto in azione per frenare lo spread BTP, cioè la Lagarde che è andata in quarantena per fortuna, perché deve un attimo ripigliarsi Christine Lagarde dopo quello che ha fatto e dopo tutto l'ascolto che ha dato a quel genio di Weidmann. Perché non parla Weidmann, il presidente della Bundesbank, adesso che la Germania ha 8.000 casi e ha le imprese che fermano la produzione e sta costruendo un ospedale da 1.000 pazienti? Che ci faccia sapere il suo punto di vista teutonico il presidente della Bundesbank, è per dire ognuno si salvi con i soldi che ha in casa, no? Va bene, in Italia l'agenzia della riscossione ha bloccato tutti i pagamenti, cioè chiude di fatto, chiude gli sportelli al pubblico e si sospendono così tutti i pagamenti della rottamazione di nuove cartelle e ancora il ministro Di Maio ha detto il modello Italia salva le vite. Questa mattina il vice ministro dell'economia Laura Castelli, ospite da 24 mattino con Simone Spezia e Maria Ratella, è intervenuta sul modello Italia e più in generale sul decreto approvato ieri. Questo decreto è finanziato in deficit e quindi ci saranno emissioni di titoli, per cui questo è debito vero, ma siamo certi, e insomma io anche in questi giorni lo sto dicendo, si sta aspettando di verificare insomma che l'Europa questi denari ce li conceda. D'altronde il 13 di marzo la Commissione Europea ha scritto nero su bianco tutti i punti economici sui quali intende aprire a un finanziamento, quindi noi ci auguriamo che in questi giorni con i dibattiti che ci sono a Bruxelles si possano considerare delle risorse cospicue, anche perché andremo avanti, quindi non è finita qua, ci saranno altri decreti sui quali si dovrà ragionare sugli indennizzi eccetera. Io quello che Posso dire che oggi gli altri paesi ci stanno prendendo a modello su alcune cose che stiamo facendo, con molta fatica, molto senso di responsabilità, anche qualche dubbio delle volte. Economicamente è impattante, non c'è dubbio, ed è solo l'inizio. 25 miliardi sono serviti per mettere la diga, come diceva ieri sera Conte, ed è una diga importante, perché è un modello, di fatto è un modello di welfare, di tutela di tutti gli italiani. Allora, dunque, vedo molti messaggi a 349-238-6666. Qualcuno dice basta con questo sovranismo irrazionale, ma non è che se faccio sentire l'inno sono sovranista, su, cioè c'è una bella differenza tra immaginare che noi possiamo fare da soli quella liretta e essere orgogliosi dell'inno d'Italia. Ci arrivi anche lei, abbia pazienza. A me l'inno piace quando vedo il rugby perché sono un appassionato, quando vedo il calcio perché sono un appassionato, quando vedo lo sci perché sono un appassionato. Oh, mi piace l'inno. Ma se non capisce il messaggio che c'è sotto, dopo aver preso per 10 giorni qualcosa che assomiglia alla cioccolata lanciata in un ventilatore verso tutti gli italiani dagli altri paesi europei che sembravamo gli appestati, sono tutti lì a copiare punto per punto quello che abbiamo fatto noi, anche come misure economiche. Allora, invece una cosa la dico prima del meteo, ci sono varie iniziative, non riusciamo a darle tutte, dalla famiglia Berlusconi, la famiglia Caprotti, quindi Esselunga, famiglia Caltagirone, ho visto tantissime iniziative di famiglia Agnelli che vanno a destinare milioni e cifre per l'acquisto di macchinari a diversi ospedali, chiaramente a diverse strutture sanitarie. Intesa San Paolo ha stanziato 15 miliardi per le piccole e medie imprese attraverso misure straordinarie dedicate. Molte banche stanno, gli istituti bancari, sia comprando i macchinari, cioè dando i soldi per comprare i macchinari, che aprendo linee di credito dedicate alle piccole e medie imprese. Non riusciamo a seguirle tutte, però bello che vi sia anche questa solidarietà che poi serve. Guardate cosa si sta realizzando a San Raffaele grazie ai soldi anche dei privati. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, cerchiamo di dare delle prime stime non su quanto durerà il contagio, ma sulla, diciamo, la durata di questa recessione, perché nella storia ne abbiamo studiate le recessioni economiche e vorrei capire a quale modello gli economisti stanno iniziando a fare riferimento, a V, a W, a U, a L, dopo il meteo. Focus Economia. Dunque, non è una domanda né prematura, né... Quando studiamo le crisi, ne abbiamo viste anche in questo programma, le abbiamo commentate in questi 20 anni, gli economisti si ispirano a dei modelli che hanno a che fare con le lettere. Una crisi può essere a V, cioè un crollo precipitoso, che è la crisi più classica, c'è un crollo precipitoso dell'attività produttiva, si raggiunge il limite più basso e poi ritorna su molto velocemente, tanto velocemente quanto è crollato, una V classica. Addirittura c'è chi, vabbè, non voglio allargare troppo. Poi c'è la L, che vuol dire che tu crolli e poi tu resti lì, sostanzialmente non ti rialzi dal livello in cui sei sceso. C'è la crisi che assume la forma di una U, ossia è meglio di una L, peggio di una V, perché tu hai un crollo verticale, poi resti stagnante per un po' e ci metti più tempo a ripartire. Poi abbiamo visto anche la W, che è quella che si beccò l'Europa, che prima beccò la crisi del 2008, Lehman Brothers and Company, poi si beccò quella del 2011, con grazie alla Germania, con i debiti sovrani. Insomma, questi sono i modelli che più o meno si studiano, V, L, U o W. Non so se ne ho dimenticato qualcuno, chiedo lumi al professor Francesco Daveri, che è direttore del Master all'MBA della SDA Bocconi. Buonasera professor Daveri, innanzitutto. Buonasera. Sembra che le lettere le abbia dette tutte, quelle che almeno sì, c'è un ascoltatore che mi dice che c'è anche il modello AQ, però non glielo posso spiegare perché siamo in una fascia protetta e non ne dico dove va quella gambetta della Q. Però al di là di questo, voi, è presto per dirlo, oggi abbiamo visto iniziative delle banche centrali, ma abbiamo visto anche tutte le agenzie di rating dire siamo già in recessione. Trump ha detto sì, saremo in recessione ma recupereremo altrettanto rapidamente. Allora uno potrebbe immaginare che una volta levati i blocchi e cioè quindi sotto controllo la parte epidemiologica, subito l'attività potrebbe ripartire, quindi sarebbe la versione migliore, c'è cioè una crisi a V? Sì, nel senso che c'è però un ingrediente che bisogna trovare in tutto questo, ovvero sia che non duri troppo la fase discendente, perché per poter ripartire rapidamente occorre che, prendiamo l'Italia, le zone più duramente colpite sono quelle del nord, dove c'è il grosso del PIL, il grosso delle esportazioni, il grosso della ricerca e sviluppo. Allora queste zone non devono vedere smantellato il loro settore produttivo durante questo periodo. Quindi, per quanto violenta sia la cosa che stiamo sperimentando in questi giorni e che temo andrà avanti ancora per qualche settimana, ecco, deve essere qualche settimana il periodo. Se fosse più lungo, molto più lungo di così, o più lungo di così, che vuol dire arrivare fino all'estate o dopo l'estate, allora quello renderebbe la recessione che sperimentiamo necessariamente qualche cosa da descrivere con un'altra lettera che non la V. Senta, visto che gli stimoli monetari non stanno servendo molto, nel senso che, abbiamo detto, i tassi erano già a zero, non è una crisi finanziaria, non è una crisi di fiducia tra banche, le autorità, per carità la BCE ha sbagliato tutto a partire dalla comunicazione, ma non abbiamo più la leva delle banche centrali come nel 2008. Secondo lei le misure che ha preso l'Italia e che stanno prendendo in maniera identica, cioè dare una manovra finanziaria per evitare che la gente spenda altri soldi, quindi sospensione rate, sospensione contributi, tutto quello che abbiamo raccontato in questi giorni e poi cassa integrazione in deroga, per mobilitare risorse più ampie come prima misura, può funzionare o no come misura tampone? Ma secondo me è la cosa giusta da fare, perché è una specie di helicopter money fatto dai governi, cioè lo traduco in termini comprensibili, cioè ciò di cui si è discusso in passato era del fatto che le banche centrali dovessero mettersi loro, dopo aver fatto il taglio dei tassi a zero, dopo aver fatto le politiche di acquisto dei titoli sul mercato, e anche questo non è servito, è servito a tamponare la crisi, ma non è servito a rilanciare in modo netto il credito alle aziende, perché le aziende non volevano prendere a prestito, quelle che avevano i soldi se li tenevano e quelli che invece avevano bisogno di soldi, tipo le piccole imprese, spesso non riuscivano ad andare in banca a farsi dare i soldi. Quello che sta facendo adesso il governo italiano e gli altri governi dell'Europa, e credo anche la Commissione europea nel suo complesso, se spero i governi daranno il via libera a questa iniziativa, è di mettersi loro a dare un paracadute di reddito in un momento di crisi gravissima. Questo è quello che serve fare adesso. Poi ci si penserà per vedere in che modo rafforzare la crescita una volta che l'emergenza sarà finita, ma quando c'è un fuoco bisogna spegnere il fuoco e dopo si mettono gli estintori. Il fuoco di adesso è la crisi successiva al coronavirus. Le persone non stanno lavorando perché le aziende non lavorano, non si può vendere perché non si riesce a produrre, e poi ci sono nel settore turistico, nel settore dei servizi sono state tutte le cancellazioni, non si comprano automobili, non si comprano case, bisogna cercare di tamponare queste perdite che si stanno verificando una dopo l'altra, non aiutando singolarmente le aziende, ma dando i soldi in tasca alle persone. Allora, veniamo però un attimo alla fase 2, professor Davari, perché la fase 1 è quella che lei ci ha appena descritto, cioè quella che tutti i governi stanno facendo. Le misure valgono più o meno una manovra finanziaria per tutti, abbiamo visto la Spagna, abbiamo visto la Francia annunciare 35 miliardi, è più o meno una manovra. E quelle servono per non tirar fuori i soldi in primis e dare un po', per esempio penso al voucher babysitter, penso ad una tantum da 600 euro per le partite IVA agli autonomi solo per il mese di marzo, la cassa integrazione in deroga che appunto ha un costo e via così, che permette almeno di... E poi non pagare, cioè non pagare le scadenze fiscali, non pagare i contributi e non pagare tutto un insieme di cose. Superata questa fase, però, come diceva lei, ci sarà bisogno della fase 2, cioè quando io metterò realmente i soldi nelle tasche di chi ha perso tanto, Glielo dico per questo motivo: noi sappiamo che c'è una bella differenza tra i beni durevoli, per esempio, e i beni non durevoli. Io magari non compro l'automobile adesso, ma la compro, perché non posso neanche andare a comprarla, ma la comprerò quando sarà finita questa crisi. Quindi sostanzialmente lì c'è solo, si sposta in avanti un acquisto, e l'industria alla fine anno potrebbe fare lo stesso bilancio di prima, un frigorifero o quant'altro. Altra cosa sono tutti i consumi che io non rifarò più. Il viaggio che ho cancellato per Pasqua non lo rifarò più nel 2020, non andrò al ristorante più perché non posso andare al ristorante 4 volte al giorno per recuperare i ristoranti che ho perso prima, e via così, non prenderò 2 volte i taxi e quant'altro. In quei settori non avrebbe un senso iniziare proprio a dire ti daremo tutto quello che hai perso, superato una certa soglia, se ho superato il 20% del fatturato, così chi ha fatto nero la prende in quel posto, tutto il resto te lo ripiana lo Stato? Beh, bisognerà fare anche un po' i conti, credo, nel senso che se si offre un paracadute sufficientemente ampio alle famiglie, che è quello di cui credo si parlerà nei decreti che verranno dopo, cioè per intanto adesso si sta tamponando, quello successivo bisogna anche vedere che caratteristiche avrà preso poi la recessione, perché se la recessione riguarda tutti i settori, nel senso che per ora la recessione è stata la filiera del turismo, probabilmente, perché non abbiamo ancora visto i dati, diciamo quelli proprio con le vendite, però a giudicare dai titoli che sono venuti fuori, dai numeri che lo IATA piuttosto che la Sasso Viaggi e così via hanno tirato fuori, sono dei numeri che dicono di un crolli verticale. Queste cose, le immatricolazioni, mi aveva colpito questo dato della Cina nei primi 15 giorni di febbraio del meno 92%, una cosa quindi pazzesca, della immatricolazione di autoveicoli. Tutte queste cose sono cose che, insomma, se rimangono su questi settori si possono compensare i settori. Se però invece sono tutti i settori dell'economia che hanno bisogno di essere compensati, a quel punto bisogna fare una politica che riguarda l'economia nel suo complesso. Non si può andare a compensare... E lei non pensa che si possa andare... Le spiego perché. Perché, per esempio, i dati che arrivano sulle vendite al dettaglio, sul settore degli alimentari, della grande distribuzione, sono pazzeschi in positivo. Gli italiani sono bloccati a casa e quindi consumano molto di più nel settore alimentare, nel settore diciamo supermarket, GDO e alimentari, tra l'altro con un beneficio per non solo per i distributori ma per tutte le aziende che vendono formaggi, salumi, pasta, quello che è, frutta e verdura, che almeno non viene giù quella filiera lì, già non possono andare sugli ristoranti, almeno tengono. Quello è un settore, per esempio, che non avrà nessun danno. Il settore auto magari, ripeto, posticipa, o i beni durevoli posticipano di qualche mese. Alcuni settori invece saranno già comunque in ginocchio. I voli, adesso ne parleremo, le compagnie aeree stimano in 200 miliardi di iniezioni di liquidità. Secondo lei lì si potrà arrivare a denari a fondo perduto, almeno per questi settori che sono sicuramente più colpiti? Sicuramente se il numero dei settori colpiti nel modo che descriveva, cioè senza dei più e dei meno da calcolare, ma solo dei meno, nel diciamo, settore del commercio ci sono solo dei meno, allora a quel punto credo che in effetti di fronte al fuoco che brucia devi cercare di... Questo è parte dell'incendio, cioè il fatto di avere un intero settore che crolla per tutto il mondo, bisognerà trovare delle forme di compensazione, perché non è che non si può volare più perché sono fallite tutte le compagnie. È vero. Cioè, è vero che in fondo si potrebbe ripartire da zero, ma insomma si sa, le compagnie sono dei patrimoni da non buttare a mare, cioè le aziende hanno una capacità di resistere, hanno un capitale che non è solo il capitale investito, ma il capitale umano, il modo di affrontare le crisi anche del passato a cui hanno provato a reagire. Faccio un esempio, oggi c'è per esempio il Confturismo lancia l'idea di un di poter detrarre le spese per le vacanze in Italia, adesso è presto ancora per immaginare anche solo qua dove andranno in vacanza, ma che è un'idea, poi noi torneremo con l'iniziativa Io Resto in Italia, l'abbiamo solo sospesa in questo periodo. Ho visto il presidente dei Federalberghi Bocca, se riesco a trovarlo, un bonus anche qui per chi resta in vacanza in Italia. Insomma, bisogna trovare dei meccanismi completamente nuovi e straordinari. Mentre ringrazio il professor Francesco Daveri, faccio notare che dalla Gran Bretagna, nonostante la teoria assurda di Johnson, allora hanno bloccato tutte le operazioni chirurgiche non urgenti per i prossimi 3 mesi. Per liberare 30.000 letti negli ospedali, anche perché il consulente di Johnson, che si chiama Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico del premier Boris Johnson, durante un'audizione in commissione parlamentare, ha detto che l'obiettivo della Gran Bretagna è limitare i morti a 20.000. No, non sto scherzando. Limitare i morti a 20.000. Dando per un buon risultato sarebbe limitare il numero di morti a 20.000 con mezzo, con, visto che 55.000 persone hanno già contratto il virus. Oh. Solo un inglese te la può dire con tanta freddezza e nonchalance, limitare i morti a 20.000. Grazie professor Daveri. Andiamo sul traffico. Focus Economia. No, ma guardi, vedo chi mi scrive, chi si occupa di matrimoni, che è in ginocchio, le agenzie di pompe funebri, il dramma che va oltre qualunque immaginazione dei parenti che non possono neanche salutare i loro cari e dare un matrimonio, o dare un funerale, scusatemi, degno di questo nome ai loro cari. So benissimo che i settori sono tantissimi, bisogna capire poi se si riuscirà a distinguere. Ripeto, alcune spese sono semplicemente differite nel tempo e lì alla fine avrai molti meno e molti più, magari a fine anno riesci anche a tenere, altri settori è già chiaro che no. Tutto il mondo dei servizi non recuperi la fiera che è saltata, non recuperi la corsa ai taxi che non hai fatto, non funziona così. Sono consumi quotidiani, non recuperi il ristorante, non recuperi anche l'aereo che non hai preso, non puoi volare 10 volte al giorno solo per recuperare il crollo del fatturato aereo. Di questo parliamo con Andrea Giuricin, docente di economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Aspetti che la sentiamo male, rimettiamo in collegamento. Allora, lei è autore tra l'altro del libro All'Italia, la privatizzazione infinita. Posso fare una battuta? Almeno una buona notizia qui è arrivata per l'Alitalia, perché ormai tutti stanno per nazionalizzare o aiutare le compagnie di bandiera di tutto il mondo e all'Italia è passata subito i 600 milioni non come aiuti di Stato, e quindi una buona notizia ce l'hanno quelli di Alitalia. La stima di München, ho visto poco fa il ministro all'economia, dove cavolo mi è finito, americano, dice sostanzialmente 200 miliardi per rimpinguare le compagniere. Ora Airbus ha chiuso per 4 giorni, ma come produttore di aerei in Francia e in Spagna, ma Lufthansa, che si è beccata anche un declassamento da parte di Moody's, ha un solo volo che parte sul lungo raggio. Brussels Airlines ha sospeso tutti i voli, British i 2/3, EasyJet ha messo a terra la maggior parte degli aerei, così come Ryanair, Air France KLM ha tagliato del 90% l'offerta, Austrian Airlines ha sospeso tutti i voli e potrei andare avanti così all'infinito. Mentre io trovo la stima di München, lei ritiene che si arriverà agli aiuti di Stato sulle singole compagnie? È difficile dire se si arriverà veramente agli aiuti di Stato. Quello che si sta notando è che sicuramente il settore è in fortissima crisi di liquidità, come dicevo, da diverse settimane. L'intervento americano, se non sbaglio, va in direzione in questo momento per differimento delle tasse e diciamo dare liquidità direttamente a tutto il settore aereo. Quindi è difficile in questo momento capire esattamente quello che succederà. L'importante è aiutare un settore con delle misure necessarie, perché come giustamente ricordavate voi prima, il settore aereo è quello che non recupererà questi voli e che in questo momento ha buona parte dei costi ma non ha nessuna entrata e anzi ha le cancellazioni. L'elemento più critico, perché qualcuno, adesso stavo riprendendo appunto München, diceva è peggio dell'11 settembre 2001, come, dove si bloccò tutto, comunque eravamo in diretta, ce lo ricordiamo molto bene. L'elemento più critico qual è? Perché anche sentirsi dire peggio del settembre 2001 è l'elemento temporale, forse? Sì, assolutamente, perché in questo momento non si sa quanto andrà avanti, quanto sarà estesa, perché come ben sappiamo gli Stati Uniti in questo momento hanno sicuramente un impatto inferiore rispetto a quanto è successo in Italia, pensiamo, o quanto sta succedendo in Europa. Si ricordavano tutte le compagnie, anche di bandiera, cosiddette compagnie di bandiera, che hanno chiuso perché di fatto non c'è più domanda. Il problema è capire quanto andrà avanti, e questo chiaramente è legato a un fattore molto incerto che è quello della diffusione della pandemia, e questo le compagnie in questo momento difficilmente riescono a fare questi calcoli. e quindi per questo motivo la domanda di fatto è zero e rimarrà zero per settimane barra mesi. Ancora per quello che riguarda le domande, lei vede qualche diciamo nel mondo aereo vede più a rischio il traffico interno? Allora, vi posso anche immaginare una cosa di questo tipo, purtroppo questa diffusione non è temporalmente uguale, l'Italia è arrivata per prima, altri paesi ci stanno arrivando con una o due settimane di ritardo, l'America più o meno due o tre settimane di ritardo. Lei vede più a rischio alcune tratte, cioè per esempio voli a breve rispetto ai voli lunghi, o in realtà sarà generalizzato? Beh, sembra essere un po' tutto generalizzato in questo momento, perché chiaramente dipende dai blocchi e dalla paura anche delle persone di spostarsi, giustamente, al di fuori poi che non è possibile proprio spostarsi se non per motivi di lavoro. È chiaro che tutti i paesi stanno adottando queste misure e quindi vale in questo momento soprattutto per i voli a corto, medio raggio, mentre quelli a lungo raggio qualcosa ancora abbiamo, ma è chiaro che se continuano tutte le chiusure da parte di tutti i paesi, nel medio periodo, e si intende qualche settimana, in questo caso il medio periodo, diverse settimane, probabilmente un po' tutto il settore rimarrà a terra. Forse rimane il mercato asiatico, ma il mercato asiatico interno, che in questo momento sta soffrendo meno, diciamo, l'esplosione della pandemia. Per quello che riguarda, vedo moltissime domande, se non posso rispondere a tutte. C'è un'ultima domanda, c'è qualcuno che mi sta scrivendo e mi dice, ma non mi sembra una provocazione, guardate, qui quando faremo i conti con i cocci, con le ferite di questa guerra, ci renderemo conto che il mondo è cambiato per sempre, e questo è sempre avvenuto dopo una guerra, non si è mai tornati indietro, le guerre sono rivoluzioni, le rivoluzioni non si torna indietro, e dovremmo anche riabituarci che volare per 80 euro non si farà più o non sarà più così possibile, cioè che tutto un insieme di spostamenti che la globalizzazione e la sua, diciamo, per alcuni estremizzazione, non torneranno più indietro, e quindi torneremo, ci abitueremo a stare più a casa nostra, e che un mondo iper concorrenziale di compagniere poi è talmente fragile che poi saltano per altre compagniere e si tornerà a volare di meno. Lei ritiene che si possa arrivare a una visione così radicale rispetto agli ultimi 20 anni, diciamo? Allora, sicuramente il punto è che per recuperare la domanda il tempo sarà comunque estremamente lungo, cioè non si recupererà in tempo breve, per questo le misure devono andare anche nel medio-lungo periodo. Detto questo, il fatto che delle compagnie siano efficienti, di fatto questo non verrà meno, cioè, a mio parere, cioè, il problema è vedere quali compagnie efficienti rimarranno sul mercato, per questo è necessario cercare di aiutare il settore e non singole compagnie a livello globale, questo lo dico non solo per quanto riguarda l'Italia, ma per tutto, diciamo, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché chiaramente bisogna cercare di far ripartire un settore che comunque sarà essenziale per l'economia globale. Grazie, grazie anche Andrea Giuricin. Andiamo sul GR 24. Dunque, la FIFA ha deciso di inviare la prima edizione mondiale per club. Vabbè, questo. La chiusura della borsa verrà dopo, però buona, eh? Madrid più 6, ma Milano più 2,23%. GR 24, intanto. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, stiamo attendendo come ogni giorno a quest'ora il bollettino della Protezione Civile, ma sta parlando l'assessore alla sanità lombarda, welfare Gallera, ospedali molto intasati, l'elemento critico è ancora Bergamo, 3.993 casi nel bergamasco, e per quello che riguarda il bergamasco c'era una notizia poco fa che riguardava gli impianti di rianimazione che sono saturi e quindi stanno trasferendo in altre strutture chi deve essere trattato in rianimazione per il coronavirus. Trump poco fa ha parlato, ha detto: la scelta di definire virus cinese Covid-19 è un termine accurato per indicare che proviene dalla Cina. E poi ha detto: non, insomma, qui continua anche una guerra, diciamo, geopolitica, o meglio di politica estera pura, non vogliamo trovarci nella situazione dell'Italia, stiamo lavorando bene, vogliamo meno morti possibili, non vogliamo trovarci nella situazione dell'Italia, ha detto Trump. Sì, che è lo stesso che diceva una settimana fa che erano molti di più i morti di influenza, che quindi non bisognava esagerare. Va bene, vediamo. Chiaro che io mi auguro che non abbiate la situazione dell'Italia, sta parlando però Borrelli. Andiamo ad ascoltare. Aggiunto dell'OMS, che mi accompagnano oggi in questo incontro e lettura del bollettino quotidiano. Partiamo dal dato delle persone guarite. Oggi registriamo 192 persone guarite in più, che porta a 2.941 le persone guarite. Per quanto riguarda le persone attualmente positive, registriamo un incremento di 2.989, il numero delle persone positive complessivamente è 26.062. Le persone attualmente in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi è di 11.108 e le persone che sono in terapia intensiva 2.060, sempre il 10% del totale. Questa sera registriamo purtroppo ancora 345 deceduti per un totale di decessi di 2.503. Oggi è proseguita l'attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia ad opera della centrale remota di soccorso sanitario, la CROSS. Il numero dei pazienti complessivamente evacuati dalla Lombardia e distribuiti sugli ospedali delle altre regioni è di 50, con un numero di 3 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo, registriamo un impiego di 4.682 volontari, 581 volontari in più rispetto a ieri, a cui si aggiungono ovviamente tutto il personale sanitario, le forze dell'ordine, le forze di polizia, le forze armate. Per quanto riguarda le tende del pre-triage, abbiamo ulteriori 22 tende, siamo arrivati a 622 tende di pre-triage e 122 tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Infine, aderendo a una richiesta della Regione Lombardia, come già era avvenuto ieri, abbiamo deciso di dislocare l'ospedale da campo dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, che voglio ringraziare ancora una volta per la disponibilità, presso l'ente fiera di Bergamo, quindi ricorriamo anche all'ospedale da campo dell'ANA. Per quanto riguarda la distribuzione dei materiali di DPI e dei materiali vari consegnati dal Dipartimento della Protezione Civile, registriamo ad oggi la consegna di 366 ventilatori complessivamente in tutte le regioni, la consegna di oltre 1.400.000 mascherine chirurgiche, la consegna di 50.000 occhiali protettivi, la consegna di oltre 2.350.000 guanti monouso. Per quanto riguarda le proporzioni, per fare un esempio, alla Lombardia abbiamo consegnato in termini di mascherine FFP2 e FFP3 il 32,5% del totale, il 40% dei guanti monouso, l'80% degli indumenti protettivi. Questi sono i dati odierni. Io a questo punto passerei la parola al professore Magrini, che è qui accanto a me. Prego, professore. Buonasera, vi ringrazio di questa opportunità. Come direttore generale di AIFA volevo comunicare alcune decisioni prese negli ultimi giorni che mirano a accelerare e semplificare l'accesso ai farmaci sperimentali e in generale a tutte le terapie disponibili per combattere il coronavirus. Uscirà a breve il decreto Cura Italia, nel quale saranno chiaramente espresse alcune volontà di centralizzazione dei percorsi di approvazione degli studi, AIFA avrà maggiore autorità nella sua commissione tecnico-scientifica per decidere di tutte le sperimentazioni e le proposte di sperimentazioni che sono arrivate e che arriveranno nei prossimi giorni, per poi trasmettere alla commissione tecnica-scientifica presso la Protezione Civile. Allora, riprendo la linea, avete sentito Borrelli, ci sono 192 guariti più di ieri, che salgono quindi a 2900, portano a 2941 il numero dei guariti. I contagiati sono 2989 più di ieri, portano a 26.000 il numero totale. Stavo guardando il dato di ieri, ieri su domenica era più 3.200, e anche domenica su sabato era più 3.500, e anche sabato su venerdì era più 3.400. quindi, per quanto alti, sono più bassi come numero, e ieri avevamo avuto una progressione del più 13% rispetto a domenica su sabato, che era stata più 17%, e sabato su venerdì, che era stata più 20%. Adesso rifaremo i conti, però sicuramente la progressione, numeri alla mano, sembra rallentare, per quanto faccia obiettivamente impressione. Il numero di 2989 contagiati in più, i deceduti, ahimè, appunto, hanno toccato con 345 vittime in un giorno, hanno toccato quota 2503, e poi appunto, per quello che riguarda la distribuzione di materiale medico, avete sentito Borrelli, e anche sull'agenzia del farmaco la possibilità di andare con procedure più rapide per testare i farmaci. L'ospedale da campo degli Alpini sarà installato a Bergamo, l'ho detto il commissario Borrelli durante appunto la sua conferenza. È Bergamo in questo momento la vera linea del fronte, e penso che si possa usare questa espressione in questo momento. Noi vorremmo chiudere oggi con chi invece si sta dando a fare. Ci sono diverse imprese in Italia che hanno deciso di convertire in tempi rapidissimi la produzione o verso i macchinari che servono, o verso le mascherine o camici, cioè tutto quello che serve non tanto come macchinario ma come abbigliamento per gli operatori, in primo luogo per gli operatori sanitari. Lo stanno facendo con estrema rapidità. Ci siamo occupati nei giorni scorsi, per esempio, dell'ammiraglio in provincia di Cuneo, che produce tessuti, si è messa nell'arco di una settimana a trasformare parte della produzione in mascherine. Dopo il traffico ve ne raccontiamo un'altra che sta a Concordia, in provincia di Modena, dove per fortuna l'Italia ha un distretto molto importante, il biomedicale. Ce ne ricordiamo per il terremoto di Mirandola, tutta la parte di Modena, Mirandola, Reggio Emilia e anche in parte Parma. Dopo il traffico. One Express, il pallet espresso. Vi presenta Focus Economia. Molti ascoltatori che mi dicono sono stabili in curva. Sì, un attimo, stiamo facendo i calcoli in base ai dati ufficiali sulla progressione della curva. Anche a me sembra che si sia stabilizzata la crescita, cioè che è già qualcosa, perché noi siamo arrivati a giovedì 27 febbraio abbiamo fatto più 72% casi, domenica 1 marzo erano più 50% i casi rispetto al giorno prima, così come giovedì 5 marzo erano il 25% in più i casi rispetto a prima. Ieri e l'altro ieri, lunedì e domenica, erano più 17 e più 13 ieri. Adesso stiamo cercando di fare il calcolo, di nuovo più 13, mi dico. Sì, che sembrerebbe, capito, l'aumento c'è, ma sembrerebbe stabilizzata la crescita di questo aumento. Speriamo, non voglio dare nessuna illusione, ci mancherebbe. Stefano Foschieri, amministratore delegato di Tecnoline a Concordia, in provincia di Modena, buonasera. Buonasera, buonasera radio ascoltatori. Allora, la Cina sta mandando un secondo team di 12 esperti medici che trasporta tra l'altro 30 ventilatori polmonari, 200.000 mascherine e 9 tonnellate di forniture. Il ministro Di Maio ha detto che arriveranno dalla Cina altri 100 ventilatori polmonari, almeno altri 2 milioni di mascherine, in parte già acquistati dalla Protezione Civile e dal commissario straordinario per le strutture ospedaliere. Poi ci sono singoli casi, la Fondazione Alibaba, Jack Ma ha donato 1 milione di mascherine e 100.000 tamponi alla Croce Rossa italiana, e va bene. Ci sono tante imprese, tra cui voi, che state, voi cosa facevate e che cosa state facendo adesso? Cioè, cosa avete riconvertito? Noi abbiamo riconvertito parte della nostra produzione, quindi stiamo mantenendo la nostra produzione tradizionale di dispositivi medici biomedicali per i circuiti per ozonoterapia, drenaggi postoperatori per ortopedia e cardiochirurgia. In più abbiamo aggiunto negli ultimi giorni una linea produttiva, anzi due linee produttive per la realizzazione di questa mascherina, che è stata già registrata con il nostro marchio CIE come mascherina chirurgica e che stiamo producendo in questo istante. Abbiamo iniziato domenica pomeriggio e stiamo procedendo. Quanti dipendenti siete? 30 dipendenti all'attivo. E fatturato vostro era quello di una classica piccola impresa italiana, immagino. È una piccola azienda, prima del terremoto era un'azienda da 10 milioni di euro di fatturato, dopo il terremoto è crollata, la stiamo stabilizzando sui 2 milioni e mezzo al 31 dicembre 2019. Ma per inciso, perché dopo il terremoto non siete riusciti a riprendere la produzione? Non siamo riusciti perché abbiamo dovuto delocalizzare in Valsellina la produzione e quindi persi alcuni clienti, e dopodiché non siamo riusciti a recuperare così velocemente quello che è stato perso. Che è il problema, lo dico, del motivo per cui si cerca di tenere le fabbriche, non solo di quelle necessarie come all'emergenza, come quelle che fabbricano medicinali piuttosto che apparecchiature e quant'altro, ma tutte le fabbriche aperte, perché o chiudono tutte come il mondo dell'auto, vabbè, ma se tu inizi a perdere i clienti, quello che continuiamo a dire, poi non ritornano molte volte. Ovvio che vanno tenute aperte con tutti gli elementi di sicurezza che abbiamo già raccontato, però quanto state producendo adesso da domenica pomeriggio? Domenica è iniziata la preserie, quindi è da ieri che abbiamo iniziato la produzione vera e propria. Noi abbiamo una capacità produttiva oggi di 20.000 mascherine al giorno. Il problema non è tanto la capacità produttiva, perché abbiamo già raddoppiato le attrezzature per poter aumentare la produzione. Il problema adesso è la carenza di materia prima. Cioè, materia prima che in parte doveva arrivare ieri, l'hanno spostata ad oggi e a stasera non è ancora arrivata, quindi è una mascherina che realizziamo in poliuretano, quindi senza questo poliuretano noi non siamo in grado di andare in produzione. Abbiamo una produzione a rilento, anche se potremo andare 3 turni, quindi H24, 7 giorni su 7, però purtroppo... Mi scusi, il poliuretano non vi sta arrivando per quali motivi? Perché sono lente le consegne, c'è blocco... No, sono lente le consegne, oggi hanno trovato 1000 scuse, il Corriere ha cercato la Tecnoline a Milano, siamo a Concordia, in provincia di Modena, 10 km da Mirandola, dal distretto del biomedicale, e quindi questo è il problema che ci hanno raccontato oggi. Non lo so, stiamo cercando anche nuovi fornitori per ovviare a questo problema, ma partendo lunedì, insomma, qualche problema organizzativo l'abbiamo. Quindi diciamo mi interessava il problema della fornitura, perché vorrei capire se è dovuto a rallentamenti alle frontiere o a autisti che non si fidano, perché stranieri non si fidano di... No, è una produzione italiana, quindi non c'entra gli autisti stranieri, c'è proprio un problema logistico. È un problema assoluto logistico in questo momento, sicuramente. E avete già delle immagini, insomma, visto la scarsità di mascherine in questo momento, chi ve l'ha già richiesta, chi ve l'ha già opzionata, diciamo così? Guardi, una pletora di clienti, dal cliente privato alle farmacie, ospedali, grandi industrie dell'alimentare, senza fare nomi, quindi abbiamo una clientela variegata. Abbiamo oggi ordini in casa per 600.000 pezzi e quindi dobbiamo solo produrre in questo momento. Pensate anche di assumere qualche altro persona in più, vista la richiesta? Sì, se vi è la necessità siamo pronti anche a assumere altro personale, ma crediamo in questa fase di poter essere autosufficienti con il personale che abbiamo in azienda. Quindi no, è importante che l'approvvigionamento non derivi da motivi esteri. No. Ma allora l'AIFA, a proposito, ha appena annunciato la sperimentazione del tocilizumab, il farmaco per l'artrite reumatoide, quello che fu da Napoli per la prima volta lanciato come ipotesi, la sperimentazione del tocilizumab su 330 pazienti. Partirà giovedì per valutare l'impatto del farmaco, l'ho detto appunto Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco, mentre vedo che la Banca Centrale Americana sta valutando l'allentamento delle norme sulle banche, così come da favorire il credito e il flusso di capitali in tempi di coronavirus. Vedremo che cosa arriverà anche dalla Federal Reserve. Eccola qua, la Gran Bretagna ha un pacchetto da 330 miliardi di sterline per l'emergenza coronavirus, stessa modalità e ammontare mutatis mutandis dell'Italia, che vale 350 miliardi di cioè mobilita risorse per 350 miliardi, identico a quello spagnolo che ho visto in 200 miliardi, se devi fare il rapporto diciamo con il PIL, e quello francese che anche quello viaggia sui 400 come risorse disponibili, che può mobilitare sui 400 miliardi. Grazie, in bocca al lupo, e spero che riusciate a produrli a pieno regime queste mascherine. Grazie anche a Stefano Foschieri, amministratore delegato di Tecnoline di Concordia. È veramente tutto per questa puntata, l'augurio di una buona serata come sempre, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.